senso, la radio mi manca. Mi manca una parte di me, una parte che sembra che io ci convivo, ci dormo, ci mangio, ci bevo, ci convivo. Io senza la radio, anche se non entro, solo ad ascoltare le voci delle persone, a me piace, non c'è niente da fare. E quindi non posso non averla la radio. Però ho deciso di usarla, non la promuovo la radio. Non più come la usavo 5, 6, 7 anni fa, no, adesso la uso come dico io. Solo come lo dico io, e boh. Ah, bisogna sempre, cioè, è un casino, perché, cioè, purtroppo la gente, molte persone non ti hanno capito, anche nel passato, io ci sono arrivato, ma io ho sapendo, ma che c'è un cristiano a me, non mi pare male, ma per cosa bisogna dire queste cose? Io te lo dico in faccia, te lo dico sinceramente, io non ero mai d'accordo con questa cosa. Non ero mai d'accordo, a nipoti arrabbiavi e cosa. Però io ho sempre pensato cazzo che, cioè, l'ho giunto sempre, ma che qualcuno ha tardato anche davanti a me. Io non ero mai d'accordo, non ero, perché io ho sempre pensato che tu quando ti incazzavi, cioè pulli che stavi a ne proprio rotto le balle, scusando la frase. Cioè, non ero mai d'accordo, perché non ho mai visto la cattiveria dentro te. Io ti dico la verità, Io sono d'accordissimo con te, Antonio. Noi ormai abbiamo imparato a conoscerci dopo tanti anni, anche con Babbo, inizialmente abbiamo avuto qualche divergio, ma sempre perché le provocazioni, per le cose sentite, per le cose che non vanno bene. Cioè, non si può nascondersi dietro un microfono, andare in a casa di uno e dire di Ghibo, andare a casa di altri, ma chi non vede in faccia, Rigori? Qual è il tuo problema? Qual è il tuo problema? Perché io ho più radio di te, ho più soldi di te, vivo meglio di te, sei geloso di qualcosa. Cioè, ci vogliono motivazioni per fare pezzi una persona. Se non ci sono motivazioni valide, io queste persone le definisco dei miserabili, degli ignobili, degli infami, capito? Persone valgono meno di zero, come quello che ti ho detto. Quello è un infame, quello è un grandissimo infame, capito? Quello vive di giaramenti, vive di ingazzi, di lastri, raccontando una lastra usura un favori. Se invece gli Stati Uniti si avevano pregato il guru Giulio, forse faceva meglio, Sì, anche no, non lo so, lascia perdere qua. Io solo che nella vita ci vuole un po' più di umiltà, ci vuole, perché l'umiltà mi sa che ce l'hanno in pochi, ce l'hanno. Io non ho, guarda la verità, io non ho niente, con nessuno quasi, anche se qualcuno me ne ha fatto, però che grande ci ammazza e non me ne ha fatti nulla, però io non ho niente con nessuno, lo sai, no, non mi interessa, voglio stare in pace. E da quando sono qua io non lo nego, io da quando sono potuto entrare a casa ho trovato la mia pace, ho trovato, perché io la pace non ce l'avevo, la verità, non era il mio modo di fare, non era nei miei pensieri. Io da quando sono qua sono tranquillo, sia con me stesso e con tutti. Ho trovato la tranquillità. Ho trovato la tranquillità anche con voi, cioè, grazie a Dio, ci sentiamo tutti i giorni e io sono contento, verità, sono contento. Ma stai scherzando, Antonio, ma io sono contento per tutti quelli che realizzano, quelli che riescono a fare, a realizzare i loro progetti, quelli che stanno bene, quelli che hanno una famiglia per bene, una famiglia che io non mi posso lamentare, Antonio. Io non ho mai avuto nessun problema, io sono una famiglia loro, non mi è mai mancato nulla, cioè non capisco perché negli anni tutti questi. che io sono venato, non me ne ha fatti più bene nessuno. Vivo, ma vivo veramente molto molto bene, non lo nego. Ho realizzato il mio sogno, che tu sai benissimo qual è, sto alla grande. Ho più detto, tornando indietro, perché oramai è passato tanto tempo, tornando indietro, quella cosa lì mi ha dato molto molto fastidio, tantissimo fastidio. E ti ripeto, ho voluto fare il Signore, perché altrimenti non lo so come ti sarebbe andato a finire, non lo so, però ho contato fino a 10, ma non si attrivia più a farsi né finì nel mio tragitto, e soprattutto a entrare molto ma molto poco qua nel canale 10 dove ci sono io, molto molto poco, perché potrebbe fare figo di cazzo, questo non lo nego. Beh certo, c'è ragione, non è che ti posso dire che vai indosso, no. Io, ma per carità, guarda, ma io voglio bene a tutti, no. No, non raggio di prima con nessuno, anzi. No, ma tu non sei perché la storia vecchia è. Ci stiamo raccontando il passato, ben venga l'amicizia, ben venga tutto, siamo quattro gatti, però ti ripeto, in questo contesto anche dei quattro gatti esiste sempre il gatto nero, sempre, ricordatelo, quindi bisogna sempre, guarda con chi vai che ti dirò chi sei, tu vuoi quanto sono disponibile, altro soprattutto con te, ma con tutti, non ho assolutamente nessun problema. E quando mi chiedono un favore mi faccio a pezzi, anche se credimi, questo qui ho tantissime cose da fare per la testa, ho una casa il doppio di quella che avevo prima, mille cose da fare. Però quando uno mi chiede una cortesia, un consiglio, una cosa, già lo vedi tu, e te l'ho dimostrato, io mi faccio a pezzi, perché con la gente che a me mi ha sempre dimostrato di essere una persona seria, non di pugnalarmi alle spalle, e io sono tranquillo e sereno, ma quando trovi quelle persone lì, quelle ragazze le vuoi dire, ma cosa le vuoi dire a persone del genere, ma cosa le vuoi dire, ma per favore. Lo so, ma alla fin fine se uno, cioè io, ho capito anche la cosa, che molte volte, se uno dice una bugia pure in certe cose, e viene scoperta, tu non è che puoi, la bugia magari l'ha letta per riparare alcune cose che tu non devi sapere, capito? Cioè, se tu la sai, fate dei batti dove, invece no, c'è gente che sa di sempre, boom, boom, boom, boom, io so tante cose, e mi faccio dei batti miei, perché non devo bisticciare con un amichino, cioè, ma stai scherzando? Antonio, cantame di nevuto, non so quanto, ma c'è l'età di mia figlia, no, più o meno, quindi ne so tante di cose io, tante, poi me le tengo per me, che io vivo la vita mia e l'altra, ci voglio ancora magari gli altri di seguito, capito, a me cosa me la frutti, però ti ripeto, ci sono sempre quelle persone che sono talmente cattive, che sono abituate ai geramedi, ai gasini, che mettono a mezzo persone che non c'entrano niente, perché quel discorso io ti ho fatto tempo fa, quando ti dici così, così e così, tizio, qui sei rimasto a bocca aperta, goscia, uscì, eppure non c'era nessuna motivazione, quale motivazione c'era di fare un audio, mandarlo a un tuo amico, quello giustamente, diciamo, cazzo, ma chi ti volevo mettere in due a Claudio, e me l'ha girato, e non me ne sono sceso le balle, perché come è mai possibile che una settimana fa, eravamo assieme, ci siamo visti, perché mi hai detto che appunto era nella fase del trasloco, quindi stiamo parlando di un anno fa, mi serviva del materiale per imballare e fare, cattumiciammi e allora mi vai a pesci, a pesci sì, ma tu sei un grandissimo verme schifoso, grazie. Ma dai, oi. sempre sul suo vizio di... No, ma non è ciurruendo, non è ciurru chi si abbassona, no? Ce ne sono tante altre, ce ne sono. Sì, vabbè, io delle tante altre non mi interessa. Quella è una cosa che mi è rimasta veramente in gola, credimi, come fratello, veramente, perché non me lo sarei mai aspettato, assolutamente non me lo sarei mai aspettato. Capito? Una persona, ti ripeto, che non è amico mio, nel modo più assoluto, non ci siamo mai riusciti assieme, però abbiamo avuto sempre, dico sempre, il massimo rispetto, sempre. Non posso dire mai di aver mancato rispetto a quella persona, mai, assolutamente. Anzi, una volta mi aveva chiesto una cortesia per una radio e gliel'avevo anche sistemata. E dopo, cazzo, gli ho detto, boh, io non capisco, cioè si sta ribaltando veramente il mondo, non capisco queste cose. Attenzione, niente di grave, nessuna offesa, nessuna, per carità, era un audio che veramente mi ha girato un bel balle, un bel balle. E questo lui dovrebbe sapere se l'ascolto, perché so che ascolta tantissimo, ogni tanto entra a salutare, fa delle sue uscite al cazzo, perché so quello sa fare, capite? È un audio che un po' mi ha girato molto le balle, ma attenzione, non c'era nessuna cosa di offesa, niente, però poteva evitare di fare un audio del genere, poteva tranquillamente evitare, visto che una settimana prima ci siamo visti per il traslocco, tutto qua. Vabbè, comunque, ci abbiamo scambiato queste idee, va bene, quindi il microfono può tornare sempre bene. Beh, cosa ne so, lui io, vabbè. Ma Luca non c'è più. Ci sarà che l'ha ammaiato, no, carriere. Oh, ho cazzo in televisione, bel grande fratello, ma già non mi do le balle. Ah, dai, Luca. È un appendice programma. E cosa sta guardando? Sara? Sì. No, TikTok guarda. E tanto si fa vedere la televisione, non la parita. Poi, a fare guarda la televisione. No, non l'hai compreso. Io adesso provvisoriamente, perché adesso devo guardare anche l'antenna, orgiamo, ve lo dico, siccome non funziona l'antenna che abbiamo qua, io gli attacco quella del baracchino e se la guarda così la TV. Ascolta, e cosa c'è l'antenna? Ma stai attento che adesso ce ne vuole una sola mini antenna tu. No, praticamente io quando non modulo gli attacco quello dell'apparecchio, capito? L'hai visto un po' la pendurone? È quello, Sì, ma ho detto l'antenna non è un problema, perché adesso ce ne vuole una sola. Adesso trasmetto tutti i morti e anche la RAI, capito? Quindi basta prendere una di quelle a spina di pesce, le metti quella lì, anche sotto l'antenna, sotto il palo dell'antenna del baracchino, e funziona lo stesso. Sì, già lo so. E quando non parlo gli attacco questo, ci vede bene la TV. Sì, diciamo che ci vede bene. A voi ci vede bene, alla grande. Mamma mia, cazzo domani, non ci vuole poco di grossi, c'è un tanto mio, cazzo. Uscire presto, andare alle 8, andare a fare un po' di spesa. Poi rientrare, devo fare un po' di spostamenti nel salone, perché devo fare un parcheggio, poi devo attaccare due mense, poi devo mettere il coso in bagno, un termoconvertore grande in bagno, mamma mia. Piano, tanto, la vita devi abbassare, quindi qualcosa devi pur fare. Lo sento. Sono andati a questo, c'è un piove, e per quel reattore da un po' di acqua al prato, così poi a fine settimana da una bella rasata, se no sacco di cose ho fatto, credimi, un sacco di cose, sono messo in via all'antenna, io entro così mi giusto per sbagliarmi, vedi, avevo la ragione, ma mi sono quittata che solo. Oh, tu ci do che fiamma le faccio, abbiamo scambiato due cose, due cose. Va bene, due ricordi, che per me sono solo ricordi, per carità, non me ne vogliamo male chi stava ascoltando, ma sono solo ricordi. Però c'è un sacco di cose a fare anche, cazzo, ma un bel, mamma mia. La casa può fare la barbica, ma prendere due staffe di quelle che entrano dentro il muro, lo stesso, per mettere nelle mercaville, per mettere le mensole, perché mi sto facendo il piano per mettere tutto il pellet che è sempre sopra la perana, e ho paura per i topolini, un sacco di cose, cazzo, vabbè, non si viene mai a campagna, no? Piano piano. Tanto sei in pensione, là ti dà del massacro, quindi piano piano qualche cosa devi inventarmi. Io ho capito, se con la biglia ha fatto il mano, mi devo passare la lunga, la flipper, che mi deve avere una palla particolare, quella che fa i bus. E poi, a proposito, Luca c'ha un commutatore a tre vie, la prendo? Sì, me l'ha fatto vedere, me l'ha fatto. Già lo so. Quello va bene per te, vedete. Usi due vie, una col baracchino, scusa, una col baracchino e l'altra con la TF. Se tu devi attaccare anche un altro baracchino, ci puoi attaccare anche un altro baracchino. Questa settimana la verità. Devo fare un po' di cosette, faccio un po' guidina. La prossima ancora lo posso pigliare. E io non ti preoccupare se scendo a Luca, ti faccio vedere. No, per problemi, tanto ci dobbiamo vedere questo fine settimana, ci vediamo, intanto tutti qui, ci vediamo, io ti faccio quel lavoretto con la radio e attacchiamo il commutatore. Grappa. Però io quando non ci sono a casa dimmo troppo, dimmo. Cioè, anzi io no che faccio il viaggio in capo a me, dimmo troppo i fulmini, dimmo, quindi io attacco lo stesso la notte. Tanto quanto li dimmo. Sì, Antonio, non cambia niente, Antonio. Non cambia niente. Quando tu non ci sei, non sei al lavoro, eccetera, ma anche la notte quando vai a coricarti sotto dove c'è il connettore dell'ingresso del commutatore, l'antenna, la stacchi da lì e gli altri cavi alla radio, le radio le lasci attaccate, stacchi l'antenna, capito? L'antenna che arriva al commutatore, no? La stacchi, la metti in terra, la metti dove vuoi, insomma. Mentre gli spezzoni li lasci attaccati alle radio, capito? Quando rientri a casa, eccetera, la mattina, attacchi l'antenna al commutatore, all'antenna d'ingresso dell'antenna del commutatore. È come che la stai staccando dalla radio, no? Non cambia niente, tanto. Ma la pipina, le radio io non le stacco mai, me. Cioè, una c'è l'abbinamento, lo sai, l'altro c'è lo strumento. Io in effetti l'antenna dall'apparecchio, ma lo stacco mai, stacco sempre l'antenna quella lì, io dimmo troppo, anche se c'è il parafulmine qua la notte, cioè quando non ci sono dimmo troppo, cazzo dimmi il barone no che incendia tanto per me. No, di a me non tu, ma fatemi come gli organi carbonati. Entrato nella cabina elettrica che c'era a fianco al giardino, ha fatto un blackout interno in tutto il palazzo, ha incendiato quanto guida, mi ha bruciato due radio grosse, computer, alimentatori, frigorifero, scaldabagno, televisore, cazzo, mi ha fatto un danno allucinante, cazzo me lo dico, eppure non c'era niente attaccato. Era tutto staccato, c'era la presa dell'alimentatore attaccato e basta, l'antenna tutta staccata, è entrata dalla parte elettrica che va durante vita, quindi non pensare che la cosa bella da fare, sai che cos'è? Staccare la presa dell'alimentatore e la presa e il connettore dell'antenna. se vai a tutto staccato, sì. Infatti io stacco tutto quando me ne vado, come si dice, se devo andare fuori io stacco spine, tutto va in onghe. E torniamo a Righirivenghia, l'antenna addirittura la tolgo proprio da qua, cioè la metto da un'altra parte, non appoggio neanche agli apparecchi, niente, stacco tutti i spini in onghe. A casa canto dimmo, se non ci sono casa mi fate un casino in onghe. Vabbè che ho anche molti parafulmini, però ho paura lo stesso. Ehi, ma io improvvisato c'è la ciabatta. Lasci le prese attaccate. La spina della ciabatta alla presa, staccala, pulila. Ok, metto dentro la ciabatta, dentro il cuore, però stacca la spina. Va bene, e vedo che lo scelto tutto attaccato tranne l'antenna. Tranne l'antenna allo strumento. E allora salvare il salvabile. Io invece ci avevo il commutatore elettronico su a zero, perché era elettronico a relè, e quindi non passava niente dalle antenne, ma ho lasciato l'alimentatore, gli alimentatori tutti attaccati. Io ci avevo un quadretto, c'ho anche qua un quadro, non ci abbatto, un quadro fatto dall'elettricista, dove c'era il pulsante abbassato, il salvavita abbassato, però gli alimentatori erano tutti in pensione. È entrato da lì e ha cremato tutto, mi ha disintegrato tutto. Avevo rotto il 940 della Kenwood, il milione, il 100 l'FD1000D, poi avevo piattato le VLU, avevo esciugato il bannaretto, mi ha fatto Sant'Antonio. Ma hai uscito scintilli, non te ne sei accorto di notte? Nulla, tu, nulla. È entrata la scarica elettrostatica, io ho sentito il fulmine di notte, e praticamente ha preso la cabina elettrica, un fuoco allucinante. Automaticamente deve essere che non si è fermato, ha continuato a camminare, e ha mandato scarica elettrostatica a tutta la tensione del palazzo. Capito? Quindi affinché entra la 220 sarà entrata la 350 e io nulla, tutto a posto. Non è successo niente, sono andato a accendere il radio dopo pranzo, verso le 4, ero uscito al lavoro alle 2 e mezza, mi sono riposato alle 4 come facevo sempre, alle 4 e 5, sono andato a accendere il radio, non vedo la ricezione, il logo, ci toccato il pulsante, mi sono attaccato, rifaccio, controllo, ho appoggiato il naso, ho toccato qua, si è bruciato qualcosa, qualche cortocircuito è successo. Ho pensato subito al fulmine, col naso andavo a odorare le radio, un fiago di bruciato, tutto cotto. Adesso che l'hanno fatto di tutto, roba drammatica, non è bello, no? Nessuno ti ha fatto danno lo stesso sul tetto, no? No, no, assolutamente no. L'acqua elettrica è entrata dalle prese elettriche, la tensione, capito? Ed è arrivata elettrostatica proprio botto forte alle radio, che erano a 220 come il 940, l'FT1000D a 220, il computer era collegato, la presa era attaccata a 220, c'erano altre due radio a 220, l'alimentatore era collegato, quindi è entrata la tensione, l'ha buttata anche sulle radio a 12 volt, ha fatto un casino Gesù Cristo, tutto a buttare via, qualcuno l'avevo fatta riparare, qualcuno l'ho dovuta cambiare, ho versato l'FT1000D, così bruciato, alla Iaesio, e avevo comprato l'FT1200, la radio nuova. L'avevo valutata, se la riparavano loro, avevo comprato la radio nuova. Ma basta, è un casino. Qua è diverso, perché casa bassa, capita, essendo così in alto, più alto sei, è più pericoloso c'è. Le circuiti sono in basso, come antenne, sono appena un giardino, le antenne sono basse, la massa a terra con i picchietti sul profetto, la mancera, c'è diverso l'impianto, capito? Vabbè, io sempre da stare attenti, poi quasi sempre in campagna, quando intendi depurare il carne, il praticanto beh, e non c'è pericolo di niente. Sì, assolutamente, io ho due stacchi, un esterno, i corpi che passano sotto il carverio, c'è un commutatore attaccato a parete, e stacco direttamente da lì, uno da lì. Arrivare all'interno c'è l'altro commutatore, stacco anche l'altro commutatore, quindi ho due stacchi io, due, in modo che non ci siano problemi, capito? No, ho fatto bene l'impianto, non c'è problema. Va bene Antonio, dai, che sono le 10:30, piacere mi ha fatto scambiare due chiacchiere con te, ci siamo ricordati un po' il passato, un po' queste persone che ancora esistono, ben vengano, ma rimangano al posto suo, senza mai dubbio. Saluto tutti quelli che ascoltano, a Luca Riello se non sei dormito, a te, a Sara, e ci aggiorniamo domani. Ok, poi settimana Anto già ci aggiorniamo telefonicamente, poi facciamo quel lavoretto, va bene? Grazie, tanto non vuoi ne pressa, grazie, ma com'è che ti è andata bene la borsa, vai, se io ti pigliava fuoco tutto. Ok, dai, ciao, detto questo, buonanotte. Ciao, Anto, ciao, un abbraccio, buonanotte a tutti, ciao. Ciao Luce, ti